Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci ad un nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, quindi un saluto a Carlo Garofolini. Benvenuto Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti. Allora, parliamo oggi di una questione che insomma è assolutamente importante, perché potrebbe capitare, soprattutto in questo periodo di mercato libero, dove si tenta anche di risparmiare qualcosa cambiando compagnia e si va un po' a cercare una compagnia, parliamo di energia elettrica, di gas e luce, può capitare che magari arrivano queste bollette pazze. È successo così ad una signora che poi si è rivolta a voi. Com'è andata questa storia? Sì, innanzitutto Francesco premetto che il mercato elettrico, come il mercato del gas, è diviso tra quello che è sotto il controllo dell'authority e tra quello che è il mercato libero. Se il primo è controllato e definito da un'autorità di vigilanza e quindi i prezzi sono, come dire, imposti, l'altro permette a qualsiasi compagnia di fare delle offerte o proporre delle tariffe e lavorare al di fuori di quello che è un controllo e pertanto proporre i prezzi a proprio piacimento. Nel caso specifico della signora è una vicenda che ha durato 4 anni, che ha impegnato il nostro ufficio legale, di cui la signora sostanzialmente, per effetto di una voltura che ha fatto nel contatore subentrando il posto di suo padre, questo contatore non si è mai azzerato e di fatto dopo un po' di tempo, esattamente una vicenda che risale nel 2010, si è trovata a pagare una bolletta di 7.000 euro. Accidenti, quindi un bel colpo. Se ti arriva una bolletta del genere, io credo che ti venga assolutamente un'aritmia cardiaca, tanto per cominciare. Certo, sicuramente un bel colpo, anche perché dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che molte volte quando capitano queste cose arriva prima l'addebito in banca, poi il cartaceo, e questo certamente dà pochi margini per poter fare qualcosa, rischiando anche di trovarsi magari cattivi debitori se si ha una posizione di debito nei confronti delle banche o di qualche ente. Però è vero che per fortuna in questo caso la signora non è andata così, ma ha avuto la prontezza di rivolgersi allo sportello debiti e crediti dell'Adico, che si occupa di bollette, e ricordiamo come da inizio anno sono oltre 500 i casi di bollette pazze che l'Adico ha gestito, e fortunatamente siamo arrivati a una conclusione positiva in cui Eni ha messo tutti gli errori e gli ha stornato 4.000 euro. Ecco, quindi questa volta è andata bene. Ci sono voluti però 4 anni, mi sembra di capire. Ci sono voluti 4 anni perché la signora inizialmente ha cercato di agire per conto suo, perdendo un sacco di tempo, giorni e ore, senza però venirne a capo. Purtroppo gli è sempre mancato l'interlocutore e sinceramente è arrivata a un punto in cui la signora aveva rischiato anche di trovarsi veramente con i rubinetti chiusi. Poi a un certo punto è venuta a conoscenza di questo sportello che l'Adico ha istituito circa un anno fa, cioè, con noi la nostra bolletta, abbiamo cercato di ricostruire quella che è la posizione della signora e lo stato della pratica, e dopo varie carte bollate che sono girate dall'ufficio legale e l'Eni, finalmente si è giunta alla felice epilogo di questa vicenda, dove la signora comunque dovrà pagare una parte di questa cifra, ma sostanzialmente sono stati stornati 4.000 euro. Ed è anche vero che insomma possiamo dare dei consigli anche su quelli che sono i comportamenti corretti da adottare quando un consumatore si trova a pagare questi importi, perché certamente la prima cosa è quella di non spaventarsi, ma di ricostruire quello che è un po' una situazione fotografando quello che sono stati un po' gli anni e i mesi trascorsi, e comprendere anche che insomma si può pensare di fare delle rateizzazioni su quello che è un importo che una persona magari non può essere in grado di pagare. Ecco, quindi il consiglio che diamo è non perdere la calma, sangue freddo in questi casi, e pensate a rivolgervi per esempio all'Associazione Difesa Consumatori, che in qualche modo può darci un sospiro di sollievo e aiutarci in queste cose che penso siano veramente complicate ad un certo punto. Carlo, ricordiamo che c'è anche il vostro sito, no? Sì, c'è un sito e c'è un servizio che è attivo tutti i giorni e anche durante tutta l'estate, perché l'Adico comunque non va in ferie e quindi le persone, come hai detto te, devono stare tranquille e non perdere la calma. Noi sinceramente i casi di bollette pazze le abbiamo tutte risolte abbastanza positivamente, abbiamo aggiunto delle transazioni dove non si poteva arrivare a una conclusione immediata, però devo dire che è un consiglio che io tengo a dare sempre ai consumatori, è quello di non limitarsi sempre alle letture stimate, ma prendere l'abitudine ogni tanto di fare le letture effettive e soprattutto avere come comportamento corretto quello di mettersi davanti ai contatori e verificare se con le utenze tutte chiuse i contatori girano. A volte ci può aiutare a individuare delle perdite o delle fughe. Sì, quindi spegnere tutto, staccare televisori, frigoriferi e tutto quello che abbiamo di acceso, andare a vedere se per caso il nostro contatore comunque segna un assorbimento della corrente elettrica, che assolutamente, come dicevi tu, può capitare e ci può aiutare questo a ridefinire la spesa della nostra energia. Voglio dirti, Francesco, prima di chiudere il collegamento, che può essere anche molto utile chiudere tutti i rubinetti dell'acqua e controllare se gira il rubinetto dell'acqua, come quello del gas. Certo. Perché a volte abbiamo scoperto che le perdite occulte e le dispersioni principale fonte di bollette incredibili. Esose, assolutamente. Grazie quindi a Carlo Garofolini, grazie all'Adico, l'appuntamento con l'Adico torna tra 2 giorni. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.